come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:38 minuti in questo momento, numero di telefono per chiamarci in diretta 800 24 00 24, il numero verde per le vostre telefonate fino alle 20:45 per dire la vostra sui fatti del giorno, 349 238 6666 per i messaggi, la zanzara @ radio24.it per le vostre mail. Iniziamo subito con il TG2 titoli. Eluana morta per disidratazione, dice l'autopsia. In arrivo il nulla osta per la sepoltura. Domani o dopodomani funerali religiosi a Paluzza, paese di origine della famiglia. Corruzione, truffe e tangenti. La Corte dei Conti denuncia le troppe disfunzioni e la poca trasparenza della nostra pubblica amministrazione. Preoccupa l'indebitamento degli enti locali. Temperature in calo soprattutto nelle regioni del centro-sud, dove continua a nevicare, nelle zone appenniniche. Resta alto il rischio frane soprattutto in Calabria, ma ora è il gelo il nuovo pericolo. 6 italiani sono morti in 2 diversi incidenti stradali all'estero. 2 sorelle e un uomo hanno perso la vita in Perù in uno scontro fra un autobus e un camion. Altri 3 in Australia a bordo di un camper. Erano i titoli del TG2. Si apprende da Sanremo che una canzone del Presidente del Consiglio verrà cantata naturalmente da Apicella, lo chansonnier del Premier, un brano scritto insieme a Berlusconi, addirittura a Domenica Inn dopo il festival. Ma a parte queste cose, vorrei sentire la vostra opinione su un fatto di cronaca che ieri magari abbiamo un po' trascurato per parlare di Eluana Englaro. Il fatto di cronaca è avvenuto a San Cipriano d'Aversa, dove un imprenditore ha ucciso un ladro, gli ha sparato dalla finestra della sua villa, è stato naturalmente arrestato. Secondo il PM è omicidio volontario. La vittima è un albanese. Sentiamo i titoli di Studio Aperto. Concesso il nulla osta per la sepoltura di Eluana Englaro. Entro venerdì l'ultimo addio alla giovane morta dopo 17 anni di stato vegetativo. Ma papà e mamma non ci saranno. Il procuratore di Trieste conferma decesso compatibile con il protocollo. Scontro tra CSM e guardasigilli Alfano. Sono gravissime le condizioni dell'uomo aggredito e dato alle fiamme a Roma. È riuscito soltanto a ricordare che gli aggressori erano 4 e ha aggiunto: mi hanno picchiato e cosparso di benzina, forse un debito all'origine dell'episodio. Attenti al bancomat, così sono in agguato le bande di truffatori. Arrestati a Milano 7 rumeni che, armati di microtelecamere, rubavano i codici agli ignari clienti, e ci sono altri mezzi ingegnosi per clonare le carte. Centro-sud nella morsa del maltempo, bufere di neve in Abruzzo, mareggiate in Lazio e Campania, forti grandinate a Roma, imbiancata dal ghiaccio, nuove interruzioni sulla A3 per rischio frane, per il fine settimana si attende un ulteriore peggioramento e temperature in picchiata. Portafogli pieno e zaino vuoto, dal prossimo anno arrivano bene, i libri... Bene, 18:41, 800 24 00 24, ci sono altre 2 notizie su cui vi invito se volete a intervenire. Bossi addirittura che dice: Napolitano è una garanzia, la Costituzione non si cambia, il PD che fa una manifestazione per garantire, per difendere il paese dagli assalti di Berlusconi nei confronti della Costituzione. Però ancora intorno alla vicenda Eluana Englaro, i pareri, le cose più interessanti le ho ancora sentite intorno a questa vicenda. Ieri sera a Ballarò il ministro della giustizia, che dice una frase molto forte: è stata uccisa da sentenza, per colpa di una sentenza, non per l'incidente che c'è stato 17 anni fa. E se oggi tra il rammarico e la tristezza che ci avvolge ci chiediamo, personalmente è una domanda che non mi abbandona da 25 ore, di che cosa è morta Eluana? Beh, non possiamo dire che sia morta dell'incidente stradale di cui è stata vittima nel 1992, perché a quell'incidente ha sopravvissuto per 17 anni. Non possiamo dire che sia morta di protocollo, perché di protocolli non si muore, né alcun medico avrebbe potuto applicare a lei quel protocollo se non vi fosse stata una specifica possibilità giuridica. Bene, è morta di sentenza. È morta di sentenza. C'è una santificazione in atto da parte della maggior parte della stampa italiana, degli opinionisti, degli intellettuali, eccetera, ed è la santificazione di Enrico Mentana. Sentiamo Sansonetti, naturalmente santificazione inteso nel senso di giornalista con la schiena dritta, che ha fatto il suo dovere, che si è dimesso da Mediaset perché in contrasto con lo spirito commerciale di quella televisione, perché era giusto mandare in onda a quell'ora uno speciale sulla morte di Eluana Englaro. Piero Sansonetti, ex direttore di Liberazione. Sono entrato anch'io in conflitto qualche mese fa col mio editore, ma mi sono attaccato alla poltrona, non me ne andavo, mi hanno dovuto cacciare via. Invece Mentana si è dimesso, e in Italia uno che si dimette, bisogna benedirlo, credo, no? Non si dimette mai nessuno, si è dimesso, ha fatto questo gesto di grande... ha fatto una scelta e ne ha assunto tutte le responsabilità, credo che sia una cosa importante, quindi lui ne esce bene. Guglielmi, l'ex direttore di Rai 3, ai tempi di Telekabul, che dice non in realtà Mediaset se ne è sbattuta, se ne è fottuta, usa questa espressione della vicenda Englaro. Bastava dare a Matrix dalle 9 alle 10 un'ora, si può fare anche una grande trasmissione e poi fare partire un'ora dopo, ma invece proprio fottersene. No, ma avrebbe avuto un senso se fosse stato un segno di protesta verso la strumentalizzazione che del caso è stato fatto, ma questo non è, perché chi ha strumentalizzato era proprio il padrone di Canale 5. E poi ancora Antonio Polito. Se Polito fosse stato in Mentana avrebbe fatto la stessa scelta? Sì, proprio sì, perché in un paese che ha i problemi che sconosciamo, che sappiamo, diciamo, una delle responsabilità personali che tutti noi dobbiamo avere nel nostro lavoro è quello di seguire almeno dei criteri, di attaccarsi a dei criteri di deontologia. Io non so, magari Mentana ha litigato con Mediaset per mille altre ragioni che noi non conosciamo, magari sta per andare a Sky. Non voglio trasformare nessuno in un eroe della libertà di stampa e così via, ma il fatto specifico per cui lui ha lasciato, cioè è giusto pretendere, secondo me, da una televisione, in una vicenda come quella, di svolgere una funzione pubblica. D'altra parte c'è anche la dignità professionale di chi vede che il concorrente fa quello che lui non può fare, eccetera, eccetera. Sulla questione, quindi io sì, io avrei fatto la stessa cosa, penso proprio di sì. Avrei fatto la stessa cosa, dignità del giornalista e funzione pubblica anche di una televisione commerciale. Il senatore Riccardo Villari del gruppo misto, ex presidente della Vigilanza Rai, buonasera. Buonasera, buonasera a voi ascoltatori. Allora, senatore Villari, è stato uno di quelli che subito ha detto Mentana ha fatto bene, ha espresso solidarietà. Mi può spiegare perché? Ma mi è sembrato che in un paese in cui tante volte le cose sono paludate e gesti coraggiosi e coerenti sono pochi, la posizione che Mentana ha assunto nella questione di cui parliamo a me sembra una posizione opportuna, visto il contesto, visto il ruolo che Mentana ricopre in quella rete, insomma mi è sembrato giusto, insomma. Però mi scusi, la sua è una critica come Mediaset ha gestito la vicenda. Secondo lei la rete ammiraglia di Mediaset, che è Canale 5, doveva mandare uno speciale o qualcosa e non relegare, tra virgolette, a Rete 4 la vicenda di Eluana Englaro, che pure ha fatto una diretta lunghissima con Emilio Fede, come lei sa? No, il mio è un apprezzamento alla posizione che ha assunto Mentana. Dovrei sapere, per poter criticare dovrei sapere tanti risvolti che probabilmente non conosco. Ma io mi limito a testimoniare un apprezzamento per una posizione che a me è sembrata opportuna, anche perché è una vicenda, quella di Eluana Englaro, di cui se ne è parlato tanto, che ha spaccato il paese. Anche io ho anche criticato la RAI perché prima di affrontare con uno speciale di Porta a Porta la questione non ha inteso cambiare una programmazione che mi sembrava particolarmente inopportuna, è un mio punto di vista. Per esempio, che cosa? I pacchi oppure X Factor? Esatto, i pacchi, lo stesso X Factor, insomma, una vicenda di quell'impatto di cui se ne è parlato tanto, apparire già metabolizzata così, come se consumata come se fosse un reality, secondo me non aiuta a formarsi un'opinione, non aiuta. Insomma, io avrei, insomma, in questo senso qui la vicenda Mentana è stata ancora quella più forte, più eclatante, quindi insomma io ci ho tenuto a manifestare a precisare un apprezzamento, ecco. Poi è chiaro, queste vicende possono nascondere, sai, ma sì, all'interno di aziende ci possono essere anche altre dinamiche che uno non conosce, però insomma nel fatto specifico io ho apprezzato l'atteggiamento che ha assunto. Mi è sembrato, le faccio una domanda cattiva, Le faccio una domanda cattiva e maligna. Lei è stato ospite un paio di volte anche come ospite unico da Matrix. Certamente Mentana fa il giornalista, le ha fatto anche domande scomode, eccetera, eccetera, un bravissimo giornalista. La sua solidarietà nasce anche da questo, dal fatto che ha trovato spazio in quella trasmissione? Però sarebbe un'offesa a Mentana, la sua professionalità. Io ho anche fatto un appello affinché il servizio pubblico si faccia subito avanti per acquisire un fuoriclasse di questo livello, e quando dico fuoriclasse vuol dire un giornalista autorevole, serio, corretto, equilibrato e di qualità come Mentana, quindi insomma non siamo proprio in quel terreno, insomma. Lei non ci ha visto un po' di lo dico con il massimo rispetto di Mentana, che considero un grandissimo professionista e molto bravo, da cui si può solamente imparare, non ci ha visto un po' di narcisismo in questa decisione? Perché insomma, diciamo la verità, Mediaset non è la televisione pubblica, anche se qualcuno dice che in questo caso bisogna comportarsi da televisione pubblica, da servizio pubblico, lo dice Angelo Guglielmi, un grande esperto di televisione, però se vediamo i risultati del Grande Fratello e i soldi incassati dal Grande Fratello, con cui campano anche tantissimi giornalisti, colleghi, amici di Mediaset, forse il ruolo di Mediaset da questo punto di vista è un po' diverso, o no? Guardi, io credo che non è soltanto in termini di auditor e di soldi che bisogna misurare la qualità di una televisione e l'opportunità di alcuni programmi, perché noi sappiamo bene che il pubblico tante volte può chiedere anche cose che insomma sappiamo tutti che forse non è giusto dare, come posso dire? In certi momenti non bisogna ragionare solo in termini di domanda e offerta, quindi io condivido quanto dice Guglielmi, cioè che ci sono determinati accadimenti che per fortuna, voglio dire, non sono molto frequenti, in cui ci deve essere una sensibilità comune che unisce il paese, secondo me. Quindi nel caso specifico io ho visto questo, facendo questa valutazione, muovendo da questa convinzione, sì, nel comportamento di Mentana, così come ho apprezzato la solidarietà di tanti, voglio dire, che gliel'hanno data, anche io mi sono unito a questo. Non c'è nessun narcisismo, secondo lei? Non c'è stato nessun narcisismo del conduttore che vuole occupare legittimamente uno spazio di informazione? Ma più che narcisismo vorrei dire c'è forse un legame con l'azienda, visto che l'azienda concorrente in qualche misura trattava l'argomento, diciamo, ecco, più che narcisismo vedo più questo al limite, voglio dire, ma mi sembra anche scolorire questa motivazione rispetto al fatto in sé, che rimane tutto, insomma, ecco, voglio dire, mi è sembrato un gesto apprezzabile, ecco. Non lo vorrei mai enfatizzare troppo. No, vabbè ecco, la ringrazio, senatore. Grazie a lei. Grazie. Detto da lei, che ci ha messo tanto tempo a dimettersi, qualcuno ha detto proprio Villari che è rimasto, tra virgolette, attaccato alla poltrona. Lo dico, senatore Villari, con ironia, naturalmente. Invece Mentana si è dimesso. Insomma, si è dimesso. No, non mi sono mai dimesso io. Attenzione. No, lo so. No, lo mai. So, lo so. L'hanno mandata via, lo so. Lo so. Anzi, io sono sempre in attesa che mi rispondano perché. Grazie, buona serata. Andiamo a Reggio Emilia. Beppe, buonasera. Buonasera, Cruciani. Mi sente? La sento, dica pure. Allora, io faccio un intervento un po' articolato, poi dopo questo che ho sentito di Villari. No, lei non può fare un intervento articolato perché abbiamo 3 minuti e faccio un intervento flash. Io faccio in 30 secondi. No, 3 minuti, in 30 secondi, benissimo. 30 secondi. Praticamente, io ho letto, non so se l'ha letta anche lei, le 6 proposte del PD per la crisi economica, cioè quelli che si vedono su internet sono i capi. Sì, più o meno. Cioè, se lei le guarda, sono uguali a quelli che ha fatto il governo, e in più c'è solo quella delle pubbliche amministrazioni, che lì è la pubblica amministrazione, il 70% sono del PD. Allora? Che non pagano Lei dice che le proposte economiche del PD sono uguali a quelle del governo? Identiche, se lei le legge sono identiche. Vabbè, ma sai, gli slogan dei programmi che sono su internet non è che sono, che possono essere molto diversi, Almeno avessero la io non sono un forzista, io sono uno di quelli che non è in Parlamento. Ho capito, ma su alcune cose credo che su alcuni fondamentali economici è giusto pure che alcune forze politiche che hanno grandi responsabilità la pensino allo stesso modo. Poi alla fine ci si divide anche spesso per demagogia. Non capisco cosa sono questi tre, cioè fanno 3 giorni di manifestazioni o un incontro? Ma chi, il PD? Il PD. Ma guardi, non lo so, credo che facciano una manifestazione per la difesa della Costituzione. Perché 14, 15, 16 c'è scritto su internet, sul loro sito. Non lo so, ci informiamo meglio, non sono molto al corrente, so che c'è una manifestazione per la difesa della Costituzione. Non la sto seguendo molto, devo dire la verità. La ringrazio. Andrea da Torino. Andrea, buonasera. Buongiorno, buonasera. Ritorno a Mentana io. Sì, allora, serata di lunedì. Grande sì. Fratello su Canale 5 in diretta, un carazzone unico con grande ascolto. Italia 1 ha un telefilm e mi sembra Rete 4 una soap. Decidono di... Ma no, lunedì quando? Quando muore Luana Englaro? Sì, decidono no, di... No, Rete 4, in programmazione lei dice, in programmazione sì. C'era questo. Allora? Decidono di tenere la diretta del Grande Fratello perché era un carrozzone, era anche difficile secondo me da fermare. Chiedono a Fede di fare la diretta. Fede è un sì. giornalista come Mentana, non mi sembra mi sembra presuntuoso da Mentana dire io sono meglio di Fede 1. Se fosse successo invece martedì prossimo, faccio un esempio, su Rai 1 c'è Sanremo che non avrebbero mai interrotto, su Canale 5 c'è RIS che è un programma registrato, un telefilm registrato, ci sarebbe andato Mentana, punto e basta. No, ma lei ha ragione, c'è la coincidenza del Grande Fratello. Lei dunque dice c'è dell'altro nelle dimissioni di Mentana, mi sembra di capire. Sì, sì, sì, secondo me la colpa è di Chiambretti su Italia 1, gli ha dato fastidio. D'accordo, ah, d'accordo, Andrea, la ringrazio. C'è un altro elemento che riguarda Mentana, cioè l'audience quando c'è Sanremo non viene considerata perché Matrix si interrompe nella settimana di Sanremo. Stiamo parlando molto di informazione, come l'informazione ha trattato la vicenda di Eluana Englaro e in particolare il caso Mediaset, perché c'è l'opposizione che ha detto l'ennesima dimostrazione del fatto che Berlusconi vuole trasformare Mediaset nel suo organo ufficiale più di quanto non lo sia già e difende Mentana, insomma le solite divisioni. Ma andiamo subito ad ascoltare i titoli del TG3. Allarme della Corte dei Conti, dilaga la corruzione, gli scandali rovinano l'immagine del paese, servono controlli più robusti. Fini per le riforme, ora serve responsabilità corale, Berlusconi dialogo, io il più moderato, Veltroni in piazza per difendere la Costituzione. Autorizzata la sepoltura di Eluana Paluzza, paese della famiglia, la causa della morte è compatibile con il protocollo. È gravissimo, l'uomo trovato semicarbonizzato alla periferia di Roma, ha detto di essere stato aggredito, ma forse è tentato suicidio. Israele e i centristi vincono ad un soffio le elezioni, braccio di ferro tra la Livni e Netanyahu per il governo, ma si cerca una maggioranza. Alla vigilia dell'arrivo dell'inviato di Obama, raffica di attentati, kamikaze a Kabul, colpiti i palazzi del potere, decine di morti. La danza resa famosa dagli All Black non potrà più essere usata per gli spot e riconosciuta ai Maori la proprietà dei diritti. Dal Colosseo alla Tour Eiffel si abbassano le luci, il 13 febbraio giornata di risparmio energetico promossa da Caterpillar. Bene, erano i titoli del TG3. Avete sentito tra i titoli l'allarme diffuso oggi dalla Corte dei Conti sulla corruzione dilagante nella pubblica amministrazione, ci vogliono più controlli. Durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario da parte del presidente Lazzaro. Vi invito su questo a leggere un articolo molto interessante che questa mattina ho visto sul Sole 24 Ore, firmato da Orazio Carabini, perché se Bernard Madoff, sapete Bernard Madoff è il grande truffatore che ha organizzato una mega truffa per 50 miliardi di dollari a clienti di tutto il mondo, ebbene se questo Bernard Madoff fosse stato un italiano, in realtà sarebbe a piede libero. Le autorità giudiziarie, leggo, non avrebbero potuto disporre il suo arresto dopo la scoperta della colossale truffa ai danni di migliaia di investitori. Per i reati di appropriazione indebita e di truffa in Italia, la magistratura non può procedere per questi reati con le misure cautelari in quanto la pena massima prevista è 3 anni e la legge non contempla l'arresto preventivo per i reati punibili con la detenzione fino a 3 anni. Insomma, un Madoff in Italia non sarebbe mai finito in carcere. Sky TG24. Eluana ha autorizzata la sepoltura per la procura, tutto in regola con il protocollo. Ministro Alfano parla di morte da sentenza, dura replica dei magistrati, dice barbarie. Allarme e corruzione della Corte dei Conti, controlli inadeguati nella pubblica amministrazione. Stop del CSM al disegno di legge sulle intercettazioni, può pregiudicare le indagini. Telefonata Obama-Berlusconi, G8 e questioni internazionali al centro del colloquio. Crisi, vertice straordinario dell'Unione Europea, il 1 marzo, Barroso procedere insieme. Elezioni in Israele, vince Tzipi Livni, ma la destra è decisiva, governo difficile. Giornata di attentati in Afghanistan e Iraq, a Kabul colpiti i palazzi del potere. Roma grave, l'uomo dato alle fiamme, ma non si esclude il tentativo di suicidio. Torna il maltempo in Italia, piogge e nevicate al centro-sud, disagi sulle strade. Bene, erano i titoli di Sky TG24 alle 19.20, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Sono già diversi gli ascoltatori in linea con noi, fra poco li interpellerò. La frase del giorno, molto contestata, come avete visto, come avete sentito, anzi dai magistrati italiani, ve la facciamo riascoltare, è stata pronunciata ieri sera dal ministro Alfano durante la trasmissione Ballarò. Eluana Englaro è morta per sentenza, dunque per colpa di una sentenza. E se oggi, tra il rammarico e la tristezza che ci avvolge, ci chiediamo, personalmente è una domanda che non mi abbandona da 25 ore, di che cosa è morta Eluana? Beh, non possiamo dire che sia morta dell'incidente stradale di cui è stata vittima nel 1992, perché a quell'incidente ha sopravvissuto per 17 anni. Non possiamo dire che sia morta di protocollo, perché di protocolli non si muore, né alcun medico avrebbe potuto applicare a lei quel protocollo se non vi fosse stata una specifica possibilità giuridica. Bene, è morta di sentenza. È morta di sentenza, naturalmente i leaders della magistratura italiana sono molto arrabbiati per questa frase di Alfano. Sentiamo le voci adesso da San Cipriano d'Aversa, provincia di Caserta, dove un imprenditore ha ucciso un ladro, secondo il PM omicidio volontario, la vittima un albanese, ed è stato arrestato naturalmente l'imprenditore. Dico naturalmente perché in questi casi è quasi scontato che sia così. È stato arrestato dopo aver sparato dalla finestra della sua villa, dunque non un eccesso di legittima difesa, eccetera, ma un omicidio volontario. Le voci da San Cipriano d'Aversa. Nicola Licenza è sotto shock. Ha sparato ed ucciso uno dei tre rapinatori albanesi che l'altra notte sono entrati nella sua villa mentre dormiva con sua moglie ed i suoi due figli. Le telecamere all'esterno del villino di Nicola Licenza hanno mostrato la banda di rapinatori. I banditi erano tre. Adesso Nicola è agli arresti domiciliari con l'accusa di omicidio volontario. Ma per la sua famiglia ed il paese tutto non ci sono dubbi. La sua è stata legittima difesa. Legittima difesa. Per me dovrebbe stare libero. Se questo qua andavano armata, facendo qualche cosa alla moglie, ai bambini. Furti, rapine in villa, qui a San Cipriano d'Aversa, nel casertano, sono all'ordine del giorno. E nemmeno nelle case nostre possiamo stare tranquilli. E queste erano le voci da San Cipriano d'Aversa, naturalmente tutte solidarie nei confronti dell'imprenditore che ha avvertito i rumori provenienti da un cortile, da un monitor poi interno collegato a una telecamera a circuito chiuso, ha avuto la conferma della presenza dei ladri, ha telefonato al fratello che abita a pochi metri di distanza, ma anziché aspettarlo e aspettare l'arrivo dei carabinieri ha preso la pistola che era detenuta legalmente, è uscito sul balcone, pare abbia gridato ancora qualcosa ma che insomma ha sparato senza, sembra, che dall'altra parte lo minacciassero con armi. Vorrei sentire su questo, prima di farvi ascoltare altre voci, un ascoltatore da Torino, Sergio, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Io vorrei veramente che qualcuno mi spiegasse cosa doveva fare, appunto a proposito di questo fatto, della rapina che stavate parlando adesso. Cosa poteva fare? Doveva aspettare, chiedere, siete armati, non siete armati, cosa volete? Farli entrare, poi magari, ecco lì... lì magari vedeva cosa doveva fare, poi a quel punto magari poteva difendersi. Ma guardi, naturalmente bisogna conoscere bene i dettagli, perché se la storia è come ce l'hanno raccontata, più tardi magari sentiremo il fratello, lo chiameremo, naturalmente lui si difende e ha un'altra versione. Se la versione è quella che c'è stata più o meno trasmessa dalle autorità giudiziarie, se uno spara dalla finestra senza ricevere una minaccia precisa, anche con le armi eccetera, e spara ad una persona, l'accusa è omicidio volontario, su questo non ci sono dubbi. Poi naturalmente bisogna vedere in dibattimento quello che accade. Aspettare che questi entrino. No, io capisco la sua domanda, però secondo questo ragionamento ognuno è legittimato a prendere un fucile, se lo detiene legittimamente naturalmente, e a sparare anche se non c'è una minaccia reale. La legge deve decidere qualcosa, deve mettere un limite, ovvio, un paletto, no? È esagerato, cioè se uno ha un po' di buon senso ha esagerato, però il margine è poco, in quei momenti uno non può avere la lucidità di capire cosa questi vogliono, se sono o se non sono armati. Naturalmente la ringrazio di questa telefonata. Oja Shepa, che è l'albanese ucciso, 27enne, aveva molti precedenti per furto e rapina. 800 24 00 24. Qualche scenetta dalla Camera dei Deputati, perché fra poco entrerà in funzione quel famoso dispositivo contro i pianisti, che è costato un sacco di soldi e che è una vergogna, diciamo, per la classe politica italiana, essere costretti ad adottare un sistema elettronico spendendo molti quattrini per evitare che qualcuno voti per gli altri. In attesa che entri, credo che non sia ancora entrato in funzione, a febbraio doveva entrare, forse entrerà a giorni, qualcuno tenta ancora di fare il furbo, tanto che a un certo punto Fini, nella seduta credo di ieri o di oggi, il Presidente della Camera dice: beh, senatore, deputato, onorevole, Viola si chiama questo onorevole, si abbassi, altrimenti si vede che lei sta votando per qualcun altro. 3.41, parere contrario della Commissione del Governo, dichiaro aperta la votazione. Pregherei l'onorevole Viola, se proprio non riesce a resistere alla tentazione di votare anche per il collega, di farlo stando almeno seduto, perché da qui anche un cieco la vede. Grazie. È un modo ovviamente garbato per invitare a non votare per i colleghi assenti. Vale per l'onorevole Viola al pari per i tanti altri. Vale per l'onorevole Viola e vale per tanti altri, insomma, si metta seduto, non si faccia vedere, altrimenti tutti lo possiamo guardare, in particolare il Presidente della Camera. Certi vizi non si perdono facilmente. C'è ancora qualcuno che è come timbrare il cartellino per qualcun altro, che non perde questo vizio terribile. 800 24 00 24, il professore Giovanni Sartori. Cosa ha detto questa mattina? Si è pronunciato da par suo durante la trasmissione Omnibus sulla vicenda Englaro, sulla televisione, sul grado di preparazione degli italiani. Lo sentirete tra poco. Innanzitutto dice: c'è vita e vita. C'è la vita di un pidocchio, io non credo, voglio sperare, non si riferisse a Eluana Englaro, lo sentirete adesso. La vita di un pidocchio e la vita umana. Quella di un pidocchio non vale la pena di essere vissuta, quella umana naturalmente sì. Noi abbiamo dibattuto una questione serissima, importantissima, senza chiarire la differenza tra vita in generale, che include quella del pidocchio, e vita umana, che è quella che stiamo discutendo. È tutta vita e basta. Quindi dire che, per esempio, una tesi plausibile secondo me, e concludo con questa orrendezza, e che la vita di Eluana non fosse più vita umana, secondo San Tommaso sarebbe vita vegetale. Non sentiva, non era autocosciente, niente, non aveva nessuna delle caratteristiche della vita umana. La divisione che ha fatto Berlusconi: noi siamo per la vita, c'è cioè il partito della anche vita lui, e il partito della morte. Del pidocchio o di Eluana? Mi dica Berlusconi come definisce vita umana. Questo Sartori, che poi parla di una televisione ignorante, siamo solo noi 3 e 4 che diciamo delle cose sensate, in realtà il pubblico è imbottito di fregnacce, naturalmente per colpa di Berlusconi. Poveretti, noi non facciamo nulla, noi siamo qua che cerchiamo ogni tanto di dire qualche cosa di sensato a un pubblico imbottito di fregnacce che non sa più nulla del mondo né della realtà delle cose. Se uno guarda anche la TV di Stato, dico, è penoso il silenzio che la caratterizza su tutto. Non possono, hanno il terrore di alzare un dito perché Berlusconi forse si offende e gli fa perdere il posto. Quindi lasciamo stare il noi. Noi tre qui o quattro ancora liberi di parlare, cerchiamo di dire cose sensate che ci sembrano. Il discorso sulla televisione pubblica e sul servilismo della televisione pubblica, il legame con i partiti potrebbe essere lungo e magari anche corretto, però insomma siamo solo noi 3 e 4 che diciamo delle cose sensate, tutto il resto sono tutti inebetiti oppure al soldo di qualcuno, mi sembra un argomento molto debole. Non ci sono buone notizie dal Brasile per quello che riguarda la possibile, secondo me impossibile in realtà, estradizione di Cesare Battisti. Perché c'è stato un parere preventivo da parte della Corte Suprema che dovrà decidere a breve. In ogni caso noi proseguiamo naturalmente con la nostra campagna Ridateci Battisti. Nome? Cesare Battisti. Sono ricercato da mettere in prigione a vita. Perché non ti assumi le tue responsabilità e torni in Italia? Tornare in Italia non vuol dire assumersi le responsabilità, vuol dire andare in prigione. Ma tu hai ammazzato 4 persone? Falso. Ma le armi le avete usate? Ci sono stati molti morti? Quando ci sono stati morti è chiaro che c'era un malessere generale. Dateci Battisti. Mandate una mail di protesta all'ambasciata brasiliana info@ambrasile.it oppure una lettera all'indirizzo Ambasciata del Brasile, Piazza Navona 14, 00186 Roma. Bene, alle 19.35 andiamo a Padova ad Andrea. Buonasera. Sì, buonasera. Io volevo intervenire su Mentana, dicendo che non sono tra coloro, diciamo, che apprezzano il suo gesto, perché, come ha detto lei, ritengo che sia dovuto a un atto di permalosismo, nel senso che ritengo che la sua giustificazione del fatto che Fininvest non ha fatto uno speciale non è basato sui fatti, perché lo speciale è avvenuto e tra l'altro è avvenuto come dire, interrompendo delle altre trasmissioni. Ritengo invece che Mentana sia offeso, se questo può essere un termine, passatemelo, per non essere stato lui a fare lo speciale. Tra l'altro questo suo permalosismo secondo me è del tutto ingiustificato, perché chi lo ha fatto, e cioè Fede, ha diciamo un curriculum professionale, con tutto il rispetto per Mentana, che non ha niente da invidiare a quello di Mentana, anzi, probabilmente se vedo il suo curriculum, forse quello di Fede addirittura è più importante, insomma. Quindi io credo che sia vabbè, questo. Bisogna anche dire, Andrea, che le trasmissioni, uno la può pensare come vuole su Fede, Mentana, non è questione di fare paragoni, eccetera. Diciamo che le trasmissioni di punta di informazione in questo momento della rete Mediaset è soprattutto una, quella che va sull'attualità, eccetera, ed è Matrix, su questo non ci sono dubbi. È vero, però forse a questo punto, tra interrompere un programma come Il Grande Fratello, che ha degli altri ascolti, e la programmazione di Rete 4 forse ne ha di minori, mantenendo comunque per il pubblico un servizio speciale, tra l'altro molto lungo, perché io l'ho seguito, io ritengo che Canale 5 abbia fatto una scelta anche di tipo commerciale, affidando comunque la trasmissione a un professionista, insomma, di nota professionale, al di là poi delle idee politiche, perché comunque Fede, al di là di tutto, è il direttore del telegiornale, questo vuol dire. Dal punto di vista formale, lei mi sta ripetendo quello che è più o meno il comunicato di Mediaset, si è detto con tutto il rispetto naturalmente, Andrea, lei sta dicendo Mediaset ha comunque mandato in onda uno speciale e dunque ha fatto il suo dovere, come la Rai ha continuato a mandare in onda X Factor, Mediaset ha fatto la stessa cosa con Il Grande Fratello, e comunque una televisione commerciale che ha tanti incassi dal Grande Fratello non poteva rinviare Il Grande Fratello, così? Sì, ma soprattutto io vorrei criticare la giustificazione che ha dato Mentana, perché Mentana ha diciamo, accusato Fininvest di non aver dato spazio ad Eluana, e questo non è vero. Forse gliel'avrebbe dato in maniera diversa Mentana, ma non può dire che non gli è stato dato. Forse doveva essere dato su Canale 5, forse con lui conduttore, forse nella sua trasmissione, ma dire che Fininvest non ha dato spazio a Eluana direi che proprio è smentito dai fatti, nel senso che comunque glielo ha dato. Le modalità possono essere criticate. Questo sì, ma il fatto che Fininvest abbia dato spazio a Eluana è credo un dato di fatto. Poi sulle modalità si può discutere. Quindi io credo che ci sia un po' di che sia strumentale comunque la critica di Mentana. Ho capito benissimo. Poi io ringrazio anche velocissimamente dire una cosa su Peppino Englaro. Adesso non vorrei passare per un settore di Fede, cosa che non sono, ma Fede nella sua trasmissione ha fatto delle allusioni al fatto che Peppino Englaro è un esibizionista, che potremmo addirittura vederlo seduto su un seggio parlamentare, e questo diciamo ha fatto un po' di rumor, di scandalo. Ma a me non stupirebbe più di tanto, voglio dire, si sa che ha dei collegamenti con il Partito Radicale. In passato personaggi simili a lui, diciamo, penso alla moglie di Luca Coscioni, sono diventati poi dei parlamentari. Se Fede ha fatto questa allusione, è un'allusione che comunque ha delle giustificazioni. Cioè, non mi scandalizzerei. È uno che ha pubblicato. Sì, no, ho capito, Andrea, però il punto è un altro. Credo che ognuno è libero di dire quello che vuole, e si può essere anche irriverenti, quelli che accusano magari. Quelli che dicono che in politica ci vuole anche un po' di riverenza, di provocazione, poi non possono però insomma storcere il naso quando è lo stesso Fede a essere irriverente e provocatorio, e ci sta tutto. Ora francamente che Beppino Englaro possa candidarsi o prevedere che si possa candidare mi sembra così un attacco che non ha fondamento. È vero che su internet adesso leggo che ci sono diversi gruppi che sostengono un'eventuale candidatura di Beppino Englaro, insomma mi sembra che in questo caso non sia stato particolarmente corretto attaccare Beppino Englaro evocando la possibilità di una sua candidatura. Tra l'altro Fede proprio ieri sera durante la trasmissione di Chiambretti Night è tornato sulla vicenda Englaro, rivendicando il diritto di criticare Englaro, anche se secondo me non era il caso di prendersela con il papà di Eluana. A proposito della pubblicità del libro, sentitelo. Io non ho, io ho detto assurda coincidenza che proprio il giorno in cui questa ragazza muore esce un libro del papà di questa ragazza che racconta, cioè io ho trovato che c'è stato troppo clamore, troppo presenzialismo da parte di Englaro, e lo continuerò a sostenere, perché una tragedia come questa la si vive nel silenzio, lui il clamore l'ha voluto, però l'ha come si è disciplinato, sceglieva le trasmissioni di maggior ascolto, i giornali che più gli davano risalto. quando c'è una tragedia, non c'è, ecco, e con questo poi arrivo anche alla televisione, voglio dire, non fai differenza. È tornato ancora su Beppino Englaro, uno a un certo punto la polemica finisce, appunto, e basta, ma Fede ci torna sopra. Luca da Napoli, buonasera Luca. Buonasera Cruciani, niente, velocemente, io volevo dire questo sul caso Mentana, cioè Mentana dal suo punto di vista ha ragione, però non deve neanche dimenticare che lavora ormai da anni per una televisione commerciale che ha delle sue regole ben precise. Mediaset dall'altra parte credo che abbia fatto il suo lavoro, aveva venduto sicuramente degli spazi pubblicitari importanti per il Grande Fratello e quindi lo ha mandato in onda. Probabilmente sarebbe stato opportuno giungere a un compromesso, cioè una volta finito il TG5 alle 20.30 non si mandava Striscia la Notizia e si faceva un'ora di programma fino alle 21.30 con uno speciale su Matrix, su Casa Englaro, e poi sarebbe partito il Grande Fratello. Quindi io sinceramente vedo una ragione da entrambe le parti, però ecco, con un po' di buon senso si sarebbe potuto risolvere il problema, quindi credo che alla fine dietro a tutto questo ci siano delle ragioni ben diverse e non mi scandalizzerei di vedere tra un po', insomma, Mentana su qualche altra testata giornalistica, quindi forse qualcosa che era già in incubazione precedentemente. Ecco, questa è stata un po' la scintilla che ha fatto scattare il tutto, ecco, volevo dire semplicemente questo. La ringrazio, andiamo a Venezia. Marco, buonasera Marco. Buonasera a lei. Ascolti, dica. Io vorrei criticare un attimino tutto quello che è stato questa situazione, questi giorni, queste problematiche con la vicenda della povera Luana. Nel senso che cosa vuole criticare? Non ho capito bene. Le dico infatti. Secondo me il vero Grande Fratello è stata questa vicenda. Cioè, nel senso che c'è stato tutto un baraccone montato e sulle vicende di questa povera ragazza ci sono saliti tutti. Cattolici, non cattolici, politici, giornalisti, una vicenda che è puramente umana e non doveva essere così, non dovevano salirci tutte queste persone. Perché non sono d'accordo con lei, Marco. Non sono d'accordo perché se ne è parlato. Dunque... No, beh, certo, io rispetto quello il suo parere, ma il fatto stesso che lei ne sta parlando significa che evidentemente è un caso che ha scosso le coscienze. Sa perché parlando? Perché io, avendo modo di parlare con molte persone lavorando nel commercio, è un po' il sinonimo di molte cose, di molte persone che hanno avuto modo di sentire questa vicenda. Perché qualsiasi cosa tu guardassi, leggessi, era sempre incentrata su questa povera ragazza, quando invece ci sono delle problematiche ben più serie e ben più importanti. Sì, però questo qua non è un argomento, c'è sempre qualcosa di più, c'è sempre qualcosa di più. Sì, ho capito, c'è sempre qualcosa di più importante di cui parlare, questo è l'argomento che viene utilizzato. Lo stesso Beppino Englaro ha portato all'attenzione pubblica legittimamente e giustamente questo caso, volendo ottenere giustizia dal suo punto di vista, e dunque ha creato il caso pubblico. Poi è normale che quando si parla di queste cose, quando c'è un dramma umano, diventi oggetto di una discussione e all'interno di una discussione ci sono le cose ragionevoli, c'è chi usa i toni in un certo modo, c'è chi esagera, c'è la strumentalizzazione della politica, c'è un po' tutto, ci sono le discussioni interessanti, ci sono quelle meno interessanti, ci sono gli estremisti, ci sono quelli che speculano, insomma siamo nel campo dell'assoluta normalità. Poi in Italia abbiamo una specializzazione, siamo riusciti anche a inventarci una specie di rissa in Parlamento un secondo dopo l'annuncio da parte del Presidente del Senato della morte di Luana Englaro. Dunque ci sono stati evidentemente sicuramente degli eccessi, ma da qui a dire se ne è parlato troppo mi sembra esagerato e sbagliato per la portata che ha avuto a livello nazionale questa vicenda, o no? Marco? Non ha fatto nulla questa ragazza, non ha fatto nulla, cos'è di così importante nel parlarne così tanto? No, il padre ha posto dei problemi seri, il padre ha posto dei problemi gravi e seri di cui... Vorrei chiedere una cosa, lei ha detto è nella normalità. Se questa è la normalità, c'è da preoccuparsi? No, ma io ho detto è la normalità nel senso che quello che è successo a livello mediatico intorno a questa vicenda e a livello di interesse dell'opinione pubblica, dunque anche della politica che fa parte dell'opinione pubblica, risponde in teoria all'opinione pubblica, mi sembra assolutamente normale. Anche in altri paesi ci sono state grandi discussioni, poi non se ne è parlato più dopo. Ripeto, in Italia abbiamo una specializzazione per gli eccessi, per le scivolate, per la speculazione politica, probabilmente, e su questo non c'è dubbio. Eccoci qui, giustamente un ascoltatore mi segnala: Beppino Englaro non è radicale, si è dichiarato socialista da sempre, il libro non è uscito il giorno che Luana è morta, come dice Fede, ma molto prima, in realtà qualche mese prima. Io ho trovato le polemiche di fede nei confronti di Beppino Englaro assolutamente fuori luogo, e lo ribadisco naturalmente se fosse il caso di ribadirlo. 800 24 00 24. In realtà non volevo più tornare con un ospite a parlare di queste cose, perché mi sembra che tutto sia stato già detto e ampiamente, però mi ha colpito oggi un'intervista, alcune dichiarazioni del sindaco di Udine, che ringrazio, è anche ex rettore dell'Università di Udine, è un matematico, Furio Onsel, che saluto, buonasera. Buonasera. Furio Onsel è un matematico ed è anche un personaggio, diciamo, posso dire televisivo, sindaco, ma insomma qualcuno lo conosce. Beh, perché sono stato in un periodo, sì, della mia vita. Era ospite della trasmissione di Fabio Fazio, perché proponeva dei quesiti matematici, no? Vero. Senta Onsel, lei conosce da tempo la famiglia Englaro, se non sbaglio? Beh, da tempo no, però ho avuto modo, sì, di incontrare il padre e di conoscerli in questi ultimi mesi. E lei ha detto una cosa oggi al Corriere della Sera: ce la farà, e adesso ce la faranno pagare. A chi si, perché lei è stato uno di quelli che si è battuto perché la sentenza avesse una sua applicazione, perché succedesse quello che poi è accaduto, perché pensava e pensa ancora che sia una questione di diritto, naturalmente, no? Dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano e della Cassazione. Si è battuto e adesso che dice ce la faranno pagare. A chi si rivolge? Ma qui appunto io ho ricevuto l'invito, la richiesta direi da un padre, da una figlia, da una madre, che chiedevano che fosse garantito il loro diritto alla giustizia, perché c'erano tutta una serie di sentenze che non erano assolutamente senza una smagliatura, erano tutte concordi, ed era veramente a un certo punto diventato difficilissimo poter garantire loro questo diritto. Quindi appunto io, per quello che ho potuto nel mio ruolo, li ho aiutati ad ottenere questo diritto. Sì, e certamente sono rimasto molto colpito da quanto è stato difficile raggiungere questo risultato, come immaginerebbe, no? In uno stato di diritto, se la magistratura a un certo punto autorizza un determinato intervento, no? Attuare questa sentenza che addirittura appunto è stata portata in Cassazione, confermata a tutti i livelli al TAR. Ecco, vedere appunto quanto è stato difficile in tutti i momenti mi ha un po' rosso, proprio perché qui c'era, ripeto, da garantire un diritto sul quale si fonda la nostra convenzione civile, si fonda la nostra Costituzione. Io non so quanti cittadini italiani appunto hanno letto queste sentenze, sono veramente un documento, io credo, di altissima civiltà. I giudici, veramente io quando ebbi modo di leggerle mi scorrevano le lacrime la prima volta, no? Qua tanto era forte la descrizione, però certo questi giudici hanno esplorato tutti i percorsi. Poi ovviamente uno può... Cioè lei dice che chi abbia avuto modo, se qualcuno avesse avuto modo, anche quelli che hanno fatto le polemiche più forti in questi giorni, di leggere la sentenza, si sarebbe... Io non penso al sistema delle sentenze, io penso che si sarebbero... Per esempio, non so, il tema dell'eutanasia, la sentenza dice con molta chiarezza: qui non si tratta di eutanasia, si richiama a quelli che sono i principi fondamentali della Costituzione. E quindi era un fatto proprio di diritto. Il padre chiedeva, no? Chiedeva qualche cosa che in un certo senso dovrebbe essere naturale, così anche io come sindaco appunto della città mi sono comportato. E chi ve lo vuole far pagare? Tornando alla domanda. Guardi, questo qui è il titolo che stai comprando. No, però c'è anche all'interno un virgolettato. Mi hanno fatto la domanda, certamente io credo che, cioè, visto appunto tutta la sistematica difficoltà che è stata creata per impedire questo, c'era certamente una volontà molto forte di non appunto permettere questo fatto. Poi il titolo non l'ho scelto io. No, d'accordo, però lei dice mi aspetto delle ritorsioni. Lei è un sindaco del Partito Democratico, no, già un suo assessore si è dimesso. Che paure ha da questo punto di vista? Ma guarda, Gaddi. Io poi alla fine le ripeto, lei enfatizza un aspetto di questo articolo che non è quello che io avrei enfatizzato, quindi su questo spero che non avvengano. Certamente, ripeto, mi ha colpito vedere quanto è stato difficile stabilire un principio che non immaginavo che sia un principio fondamentale. Certamente immagino che non sarà facile, no? Di contestazioni ce ne saranno moltissime, ma non era una scelta così che nasceva da un discorso improvvisato. Le ripeto, se uno legge le sentenze difficilmente ha dei dubbi che il sistema tutta la magistratura abbia trattato questa tematica con leggerezza. È un documento veramente molto molto analitico, che io inviterei tutti a leggere, anche perché è molto leggibile. Ecco, stranamente un'ultima cosa, è diverso dalle sentenze un po' arzigogolate, complicate. Un'ultima cosa, lei continuerebbe a mi colpisce la definizione di eroe, non è stato l'unico a darla, un eroe civile Beppino Englaro. Non pensa che da questo punto di vista sia un po' esagerati, anche al di là della volontà dello stesso Beppino Englaro? Beppino Englaro come eroe civile, perché? Ma non soltanto lui, anche i volontari che hanno reso possibile, proprio perché appunto era un diritto alla giustizia, e poi appunto se lei va a vedere il diritto alla libertà individuale, quindi sono dei diritti assolutamente fondamentali che erano sanciti in questo caso, e dunque dover subire anche questo tipo di sistematico rifiuto da parte di una società che non è deputata, perché la società si regge anche sulla separazione dei ruoli, ci sono i medici, ci sono gli avvocati, ci sono i giudici, ci sono i sindaci, cioè aver seguito il corso della giustizia e delle sentenze, lei dice ne fa un eroe civile. Ma il fatto, prego, l'aver seguito in tutti questi anni la strada della giustizia, dei tribunali, l'aver avuto tante difficoltà nel ottenere giustizia, cioè lui ha già ottenuto giustizia, no? Cioè i giudici sono già espressi in questo caso, eppure il sistema ancora gli rende impossibile, a lui e a sua figlia, di realizzare quello che appunto desideravano. Ecco, in questo senso, in questa volontà di non piegarsi a questa, diciamo così, chiamiamolo pure violenza che gli è fatta, no? Proprio perché non viene rispettato uno dei principi su cui si fonda la nostra società, che è la separazione. Ho capito, questo ne fa, questo fa dei ruoli. Sì, questo fa di Beppino Englaro, secondo lei, è un eroe civile. In questo senso è un eroe civile, perché pensi lei, cioè addirittura appunto uno si prende degli insulti, si prende delle condanne, eppure c'è, cioè, è tutto in qualche misura, in qualche modo legittimato da quella che è la forma più alta di sentenza che possiamo avere, che addirittura appunto al secondo grado è andato alla Cassazione, a Camere Riunite. Cioè, un domani qualunque sentenza, no, può essere messa in discussione, qualunque legge può essere messa in discussione, la democrazia, ripeto, si regge proprio sulla separazione dei poteri. Ho capito, sindaco, la ringrazio. Rispettare anche le istituzioni. La ringrazio. Andiamo a Treviso. Roberto, buonasera. Buonasera Crociani. Dica. Senta, tutta questa vicenda mi ha fatto sorgere una domanda alla quale io francamente non ho trovato una risposta, vediamo se con lei ci riusciamo a trovarla. Cioè, perché in Italia, almeno credo solo in Italia, generalizzando magari un po', le stesse persone che erano favorevoli al distacco di questo famoso sondino sono le stesse che sono favorevoli all'aborto, ma sono anche le stesse che sono contrarie alla pena di morte? Lei fa un accostamento tra la pena di morte e il distacco del sondino che, diciamo, non è che sia scontato, che non tutti accettano. Lei fa un parallelismo. La pena di morte è come staccare il sondino, cioè si uccide una persona in quel caso e si uccide una persona in quell'altro caso. Esattamente, così come sì, però questa qua non è che sia univoco, non è che sia scontato questa visione, cioè ci sono anche delle visioni e delle idee contrapposte, contrarie a questa. Sulle sottigliezze religiose, filosofiche e quant'altro, però diciamo nella sostanza si parla sempre di togliere o dare, conservare una vita, per cui le posizioni sono in contrasto netto fra di loro. Ho capito, Roberto, grazie. Andiamo a Napoli, Franco. Salve, buonasera dottor Cruciani. Buonasera, dica. Senta, io mi trovo abbastanza d'accordo col sindaco di Udine, che conosco personalmente, in quanto certamente non definirei il padre della Englaro, Luana, però la battaglia che lui ha condotto in questi 15 anni è per noi, nel senso che dobbiamo decidere, questo è il punto, non è né Mentana, perché non si è dimesso Biagi, quindi a buon'anima, non è, i punti non sono questi, sono, ha ragione Sartori nel dire che si parla a sproposito, il punto, il fulcro è lì e vorrei riportare il problema, è di chi è la nostra vita, è nostra o della società, o appartiene a Dio come qualcun altro dice, o del governo. Io le faccio una domanda semplicissima, si è parlato molto di questa sentenza che ricostruiva la volontà di Eluana, ok? Ora io dico, se noi facciamo un'ipotesi che avessimo oggi uno scritto o una registrazione, un qualcosa, una prova proprio tangibile della volontà di Eluana, che nel caso si fosse trovata in quella situazione, che poi si è trovata purtroppo, lei desiderava che ci fosse staccato il soldino. Ma il problema è anche questo, e soprattutto questo, è stato questo, sì, Franco, il fatto che non ci fosse stato, che non ci sia una prova certa, anche se poi è stata ricostruita dai giudici. Prima di tornare alle vostre opinioni, andiamo a sentire i titoli del TG5. Raffica di attentati kamikaze a Kabul, i talebani all'assalto del palazzo di Karzai e dei ministeri. Obama chiama Berlusconi, telefonata cordiale e concreta sui temi internazionali. L'autopsia, Eluana è morta per disidratazione, autorizzata la sepoltura. La salma trasferita a Paluzia, in Carnia, terra d'origine degli Englaro. Il Papa, la vita non è un bene disponibile. I dati del 2008 e l'allarme corruzione della Corte dei Conti, dai rifiuti alla sanità, dalle opere pubbliche a Calciopoli, servono più controlli. 3 turisti italiani morti in Perù in una collisione tra 2 autobus per l'alta velocità e altri 3 in Australia a bordo di un camper che si è scontrato con un'auto. Vento freddo e temperature in discesa al nord, forti nevicate al centro-sud, difficili collegamenti con le isole per le mareggiate, allerta frane in Calabria. Forse c'è la mano dell'uomo dietro lo spiaggiamento di centinaia di delfini nelle Filippine, ingannati e disorientati dai sonar militari? Bene, bene, andiamo a sentire anche il TG1, se ci sono i titoli, TG1. Obama, non c'è più un minuto da perdere contro la crisi economica, verso l'ok al piano da 800 miliardi, telefonata a Berlusconi. Israele dalle urne un rompicapo per formare il governo, Livni avanti di un seggio, ma crescono le destre. Allarme della Corte dei Conti, troppa corruzione nella pubblica amministrazione, servono controlli più efficaci. Funerali religiosi per Eluana, il procuratore, morte compatibile con l'interruzione dell'idratazione. Berlusconi, nessun contrasto con Napolitano, Bossi, vero e la Costituzione non si cambia, Veltroni, la carta va difesa, Fini, riforme condivise. San Valentino si avvicina, all'amore ai tempi di internet, inviate i video e le vostre storie a TG1 Sei Tu. Bene, anche la 7, sentiamo. La morte di Eluana Englaro, i magistrati friulani rilasciano il nulla osta per la sepoltura. Il decesso è avvenuto nel rispetto del protocollo medico. Dicono, i funerali forse venerdì, lo zio, i genitori non ci saranno. Fini prova a ricucire il dialogo parlamentare, sulle riforme ci vuole una responsabilità corale e un terreno di idee condivise. Bossi plaudea al ruolo di garanzia di Napolitano e dice la Costituzione non si tocca. Domani manifestazione del PD. Kamikaze e talebani si fanno esplodere di fronte a 3 palazzi governativi a Kabul, 27 morti tra cui gli 8 attentatori, e domani in Afghanistan è attesa la visita dell'inviato di Obama, Holbrooke. Dopo la lezione impartita dal Brasile, l'Italia del pallone si concentra sul derby Inter Milan. Domenica in campo molti protagonisti dell'incontro di ieri a Londra e fra poco da Siviglia. Bene, bene, 24 minuti, torniamo agli ascoltatori in linea con noi in attesa di intervenire. Andiamo allora a ripescare Franco da Napoli. Che stava dicendo, Franco? Sì, volevo appunto concludere dicendo questa cosa, il fatto che parliamo, come ha detto anche, della disponibilità della vita, a chi è disponibile, a noi stessi, al Dio o alla società. Englaro ha fatto una battaglia perché io credo a lui, io credo che la figlia gli avesse detto, come si dice, è stato ricostruito anche agli amici, una serie di persone, che lei avrebbe voluto quello che è successo. E quindi io rispetto la sua volontà, perché penso che la vita appartenga a noi. E vorrei sapere se il governo, diceva, è stata ammazzata per sentenza, e se oggi uscisse una registrazione, uno scritto dove diventa certo la volontà di Eluana, mi dovete, cioè, perché morti. Sì, ma non è uscita fino adesso, non è uscita, non credo uscirà nulla. Io tendo a credere a quello che dice il padre. Guardi, ci fosse stata una volontà scritta, evidente, eccetera, le cose sarebbero cambiate, anche se per esempio per Welby ci sono stati comunque dei problemi, un dibattito, quello che vogliamo, bisognava trovare un medico, qualcuno ne ha fatto anche una battaglia legittima per proporre un cambiamento legislativo, lo ricorda, no? il caso Welby. Però fino adesso, a parte la ricostruzione dei giudici, e naturalmente ci dobbiamo attenere a quella e alle sentenze della Corte di Cassazione, che hanno aperto la strada poi a quello che ha deciso la Corte di Appello, un foglietto dove c'è scritto qualcosa di evidente non ce l'abbiamo mai avuto. Certo, certo. E poi volevo chiudere solo con Battisti, ridateci Battisti, nel senso che se fosse l'Italia, ci fosse stato Israele, lei sa meglio di me che forse si sarebbe comportato diversamente da noi, cioè se lo sapevamo da prendere Battisti. A me lo dice, io sono stato quello che provocatoriamente ha detto ci vorrebbe un blitz militare. Viva il blitz militare in Brasile per riprenderci Battisti. Simone, provincia di Varese, la ringrazio, Franco. Simone, buonasera. Salve Cruciani, evito il pistolotto di complimenti e vado subito. Meglio, grazie. Allora, la questione, volevo intervenire sempre sul caso Eluana. Io come lei e come pochi altri ho sentito finora, sono contrario ad una legislazione in questo campo e le spiego perché. La questione è che secondo me, un po' come sottolineava l'ascoltatore di Napoli prima di me, la vita è un qualcosa di non oggettivamente definibile. Possiamo dire che appunto Eluana aveva una vita biologica perché gli batteva il cuore autonomamente, sì. Ma poi ognuno di noi ha la propria opinione, sono giudizi di valore per cui soggettivi. Quindi quello che penso è che naturalmente noi possiamo lasciare scritto, e infatti i miei dubbi insomma sul caso specifico erano proprio sul fatto di questa volontà ricostruita, insomma se ci fosse stato il foglietto scritto per me era ok, poi naturalmente c'è chi dice come il Papa e probabilmente i cattolici che lo seguono, che la vita è un bene indisponibile, io su questo non sono d'accordo, sul fatto che appunto ci vorrebbe o un testamento biologico o evitare proprio di andare a legiferare, è perché si finirebbe insomma un po' come si prospetta un po' quello che uscirà fuori, insomma mi sono un po' ingarbugliato, dal procedimento in atto in Parlamento, si sono dati... Cioè che comunque non si può rinunciare, anche se uno lo vuole, all'idratazione e all'alimentazione, ecco, questo sarebbe una coercizione della volontà individuale. Guarda. Effettivamente su questa formulazione anch'io ho moltissimi dubbi, diciamo che mi piace più quella del Partito Democratico, in cui se uno lo esplicita si può rinunciare anche all'idratazione e all'alimentazione. C'è una lettera che è stata diffusa dall'agenzia adesso, un'anticipazione di quanto uscirà su Libero domani, Libero come sapete, e se non lo sapete ve lo dico, ha titolato oggi Ridateci Mentana, titolo di prima pagina, domani uscirà una lettera di Enrico Mentana che rompe un silenzio che dura ormai da 48 ore, tranne alcune interviste, alcune piccole interviste, una più diffusa, diciamo un'altra più ridotta, oggi con Antonio Di Pollina che saluto, giornalista di Repubblica, buonasera. Buonasera, eccoci. Eccoci qui, la lettera è questa, se Mediaset vuol cacciarmi comunque che lo faccia, basta che non si nasconda dietro i cavilli. Poi dice Mentana ancora, ho scritto per raccontare come sono andate davvero le cose, come le ho vissute in prima persona, non ho mai sentito né quella sera né dopo con Faronieri o Pier Silvio Berlusconi, mi ha chiamato invece il direttore del personale per preannunciarmi che l'azienda riteneva concluso il rapporto di lavoro con me a causa delle mie dimissioni da direttore editoriale. Per la verità la mia qualifica contrattuale è di direttore ad persona, ma quindi è evidente che la qualifica editoriale non ha alcun contatto con il mio ruolo operativo di responsabile conduttore di Matrix. Vabbè, qui ci addentriamo in tecnicismi contrattuali che non ci interessano, ma se Mediaset vuol cacciarmi comunque che lo faccia, basta che non si nasconda dietro i cavilli. I soldi non sono un problema, la forma sì, e anche la sorte di chi sta lavorando con me al programma e ha preso della sua sospensione una lettera di due righe. Mi scusi Di Pollina, qui in questa lettera anticipata che uscirà domani su Libero, Mentana fa capire che Mediaset vuole cacciarlo. Io da quello che ho capito da osservatore esterno, magari non mi occupo quotidianamente come fa lei di cose di televisione, qui c'è una persona che si è dimessa. Adesso Mentana dice che Mediaset lo vuole cacciare, mi può spiegare un po'? Ma anche qui forse siamo in zona cavilli, ma è meglio spiegarlo. Mentana quel famoso lunedì sera aveva annunciato le dimissioni da direttore editoriale. Ora, questa carica non è che si sia mai molto ben capito in cosa consistesse, è la carica che Mentana ha avuto quando venne, diciamo, sollevato dalla direzione del TG5 ai tempi. Ora, è successo che lui voleva andare in onda con Matrix, non gliel'hanno fatto fare e lui ha detto, bene, visto che io figuro comunque come direttore editoriale, aggiunta mia, qualunque cosa voglia dire, chiusa parentesi, così, da direttore editoriale io mi dimetto, e lui aveva annunciato quelle dimissioni. Mediaset è stato su una mezz'oretta quella sera e poi è partita con una reazione durissima che adesso si sta completando. Cioè, nell'intenzione di Mentana, mi scusi Di Pollo, nell'intenzione di Mentana c'erano le dimissioni da direttore editoriale ma non dalla conduzione di Matrix? Mentana in quel comunicato quella sera ha assolutamente parlato di, cioè, poi dimettersi da conduttore di Matrix non credo che sia neanche una cosa. Lui, lui non ha detto lascio Matrix, non condurrò mai più Matrix o non andrà più in onda Matrix, cosa che non potrebbe neanche permettersi di dire, visto che ieri Mediaset ha ribadito che Matrix è un marchio dell'azienda e che può andare avanti anche da sola. Mentana ha voluto sollevare il caso, far presente la cosa, urlare al mondo che non ci stava al fatto che Matrix non andasse in onda in prima serata sera, e alla voce dimissioni ha detto, ma io da cosa posso dimettermi effettivamente? Da direttore editoriale, quale sono? Perché un direttore editoriale in teoria dovrebbe anche stabilire la linea editoriale dell'azienda, e lui quella sera come direttore editoriale avrebbe fatto non una ma un 20. Allora dalla sua ricostruzione, se la cosa può interessare gli ascoltatori, e credo che comunque sia interessante, Mediaset avrebbe preso, diciamo, la palla al balzo per sollevare Mentana da qualsiasi incarico? Non è una critica nei confronti di Mediaset, è questa la cosa, cioè Mentana non si aspettava il passo in più di Mediaset da questo punto di vista? Sì, questa è un'ipotesi che possiamo fare, che si regge benissimo sulle cose che sono successe e anche probabilmente anche da questa lettera. Leggo anche la seconda parte di questa lettera, non so se ho sbagliato, in tutta onestà non lo credo, so che tante cose non sono vere come hai desunto, si rivolge a Feltri, dal mio racconto, non ho chiesto di andare in onda in prima serata lunedì al posto del Grande Fratello, né ho mai contestato la messa in onda del programma. Non ho certo nulla contro quella trasmissione alla quale ho dedicato diverse puntate di Matrix. Non sono inquadrabile dagli adepti della TV del dolore, né mi sono accanito con trasmissioni su trasmissioni intorno al caso di Luana. Anzi, negli oltre 3 anni di vita di Matrix non me ne sono occupato solo una volta venerdì scorso. Ma soprattutto ho un ruolo di responsabilità nell'informazione di Canale 5 dall'autunno del 91, quasi 18 anni, forse ho maturato qualche esperienza su come va gestita una situazione eccezionale o d'emergenza sulla principale rete commerciale del paese, anche in prima serata. In conclusione, Mentana si augura di aver dato qualche elemento in più a tutti per giudicare con l'inevitabile senno di poi se ho fatto bene o male, eccetera, eccetera, senza vittimismi, senza avvolgermi nel tricolore, senza fare troppo la prima donna. Questa è la sintesi dell'ANSA, naturalmente poi bisogna vedere i vari passaggi, però più o meno è quello che direi dicevamo. Sì, ho un ruolo nell'informazione di Canale 5 e evidentemente questo ruolo mi ha portato a giudicare che in prima serata bisognava fare una cosa, l'azienda non è stata d'accordo, mi dimetto da quel ruolo, no? Esattamente, faccio notare una cosa, vabbè, giusto perché magari è anche divertente come punto, lui chiude con questa questione della prima donna, la qualifica di prima donna a quanto pare gli è stata assegnata da Berlusconi in persona, ieri è uscita un'agenzia che ricostruiva in qualche modo la serata di lunedì ad Arcore, nella quale Berlusconi, appreso dell'annuncio di dimissioni, avrebbe detto appunto è meglio non avere prime donne in questa azienda aggiungendo e che per di più non comprendono le logiche aziendali. E dunque c'è un riferimento diretto a Berlusconi, una lettera dunque a Feltri di Enrico Mentana che rompe questo silenzio di una quarantina di ore, mai sentiti con Falonieri né Pier Silvio. Berlusconi mi ha chiamato il direttore del personale per preannunciarmi che l'azienda riteneva conclusi il rapporto di lavoro con me. Se Mediaset mi vuole cacciare, che lo faccia, basta che non si nasconda dietro i cavilli. Dunque non si sarebbe dimesso lui, o comunque non si sarebbe dimesso da tutti gli incarichi che ha, mettiamola così, di Pollina, ma Mediaset dopo l'annuncio di dimissione del direttore editoriale eccetera lo ha fatto chiamare dal direttore del personale per risolvere il contratto di lavoro. Dunque, secondo Mentana, è una cacciata. Ora, al di là dei rapporti personali che ci sono e che restano privati tra Mentana e un'azienda, non c'è stata forse troppa dietrologia anche da parte della politica dietro questa decisione di Mentana? Ancora una volta sono state riproposte le discussioni sul conflitto di interessi, su Berlusconi, come vuole trasformare Mediaset. Cioè, non si tratta in fin dei conti di una persona che voleva una certa cosa per i motivi più disparati, ognuno ha la sua idea, e un'azienda che non era d'accordo. Cioè, un rapporto normale, una divergenza normale tra un conduttore, certo di una certa importanza sul piano nazionale, e un'azienda. Ma su questa linea potremmo anche spingerci oltre. C'è anche un dato di casualità assoluto, clamoroso. Se la povera Eluana, per dire, se ne fosse andata nella notte, probabilmente niente di tutto questo sarebbe successo, quindi si è anche trattato di una situazione nata davvero sul tamburo all'improvviso, e in cui è più facile o prendere decisioni avventate o fare mosse sbagliate o avere reazioni che poi sono di quelle che da cui non si può tornare indietro. Quindi sì, effettivamente magari si esagera un po' ad andare a cercare trame e conflitti, però accetterei questa, non so se critica o osservazione, di più se ci trovassimo in un paese, diciamo, normale dal punto di vista del panorama informativo. Siccome sappiamo che tendenzialmente non lo è, e sono 20 anni ormai che siamo alle prese ogni giorno, ogni minuto, con tutte le tentazioni di dietrologia possibile, quando si parla di informazione e di televisione, è chiaro che anche questa volta, perlomeno buona parte delle persone e la parte di opinione pubblica che la pensa in questo modo, tende inevitabilmente a spostare la questione su un terreno politico. Ma insisto, tutto questo nasce dall'anomalia di partenza dell'intero panorama informativo e televisivo. Cioè, finché c'è, la teniamo e dobbiamo farci i conti tutti i giorni. E un'ultima cosa con Antonio Di Pone riguarda le ipotesi di Sky, Mentana Sky, quanto sono concrete, quanto no, quanto c'è di fantasia in questo? Ma credo che sia stata un'ipotesi che è stata lanciata, diciamo, sul mercato, appunto, anche delle dietrologie e delle ipotesi possibili future, perché in questo momento Sky va molto di moda e chiunque si sente un po' in difficoltà o non ha possibilità. Chiunque magari litiga con la proprietà di Mediaset viene accostato a Sky quasi per un riflesso condizionato. Sì. Infatti, poi figuriamoci, in un panorama che in teoria è di conflitto forte in questo momento tra le due aziende, viene ancora più facile arrivare a questo. Mentana, a parte che me l'ha smentito con forza ieri, stamattina ha fatto di nuovo un comunicato per smentire qualunque contatto finora con Sky, quindi per il momento non si capisce perché non credergli. Andando avanti vediamo, soprattutto se appunto la situazione... Ma tu pensi che la rottura sia definitiva? Tu pensi che questa rottura sia definitiva oppure no? Io penso che Mentana avrebbe, secondo me questa lettera un po' me lo conferma, Mentana vuole provare fino in fondo a giocare ancora il gioco con Mediaset, contro Mediaset, per provare a vedere se, come è successo in passato in un paio di occasioni almeno di forte conflitto tra lui e l'azienda, si arriva a una soluzione che lo vede comunque ancora protagonista. Secondo me ci proverà fino in fondo. Solo se dall'altra parte questo atteggiamento di chiusura assoluta, solo se, per intenderci, venerdì va in onda un Matrix con un altro conduttore, allora in quel momento potremo dire che Mentana non ce l'ha fatta, che Mediaset non ce l'ha fatta, poi ognuno la vede come meglio crede, e che si aprirà una prospettiva del tutto nuova. Dire Sky però è molto facile, come è molto facile in questo momento immaginare un rientro in Rai, in un momento in cui la Rai si appresta a un giro di poltrone direttoriali deciso soprattutto, e non solo, però deciso soprattutto da chi in teoria lo caccia, secondo lui, da Mediaset. Certo. Comunque vabbè, ma sai benissimo che quando si tratta di spartizioni in poltrone in Rai, e poi qualcosa deve toccare a tutti in un certo modo. Certo, su questo non c'è dubbio. Grazie Antonio Di Pollina. Grazie. Andiamo in provincia di Milano. Ivano, buonasera. Buonasera Cruciani. Dunque, cercherò di essere molto sintetico, anche se non mi risulterà molto facile. In merito alla vicenda avvenuta a Caserta, sì. Sostanzialmente io intervengo per dire che gestisco assieme a due soci, due donne ed una dipendente, una tabaccheria in una cittadina in provincia di Milano. Allora, antefatto, dal 20 di novembre a fine di, diciamo, del 2008 la nostra tabaccheria ha subito 4 furti, di cui 3 riusciti, 1 tentato, andato male. Chiaramente questo vuol dire svegliarsi nel cuore della notte con l'allarme, 3:30, 4 di mattina, ti lascio immaginare che razza di vita si conduce. Non contenti di questo, i signori, chiaramente magari non gli stessi, si presentano sabato scorso muniti di arma in pugno alle 6:20 di mattina e puntano l'arma nella pancia della mia socia, intimandole di consegnare quanto c'era nel cassetto. Ecco, allora, ricollegandomi alla vicenda di Caserta, io penso di poter spezzare non una lancia, ma un intero mazzo di lance a favore di questo imprenditore che si è difeso a modo suo, anche perché purtroppo... Scusi, mi si fermi un attimo, tutte queste rapine che conseguenze hanno avuto dal punto di vista sia della vostra incolumità, sia degli incassi, sia soprattutto delle forze dell'ordine, mi racconti meglio? Ma le racconto meglio, allora, i risvolti sono stati, vabbè, innanzitutto risvolti personali, non le sto a dire che cosa vuol dire svegliarsi alle 4 di notte in pieno inverno, andare sul posto e trovarsi buchi nelle clair piuttosto che nella grata, vedersi svaligiato il locale, quindi che pregiudica tutto questo il lavoro di 4 famiglie alla fine, perché questa tabaccheria bene o male dà da mangiare a 4 famiglie, di cui una dipendente, voglio dire, oltre ai 3 soci. A livello, diciamo, personale, nulla di che se non il danno fisiologico di quanto questo possa creare in una persona normale che viene svegliata alle 3:30 di notte dall'allarme dicendoti che c'è una rapina in corso nel tuo locale. Il problema però diventa più grave adesso con quello che è successo di molto più eclatante sabato questo. Lei cosa pensa di quello che è successo a Napoli? Ma io ripeto, il giudizio è molto controverso di per sé, però posso capire e posso difendere veramente questo imprenditore che probabilmente si era armato e se ha fatto quello che ha fatto probabilmente chissà quante altre volte sarà stato sollecitato sotto questo punto di vista. E mi ricollego al discorso del tabaccaio che è stato condannato a 9 anni a Milano, sì, sì. Che aveva sparato dietro per un eccesso di legittima difesa. Allora io mi chiedo, ma signori, lo Stato che è così sollecito a mandarci fuori le cartelle esattoriali e le multe da pagare perché tu ti dimentichi di registrare nel registro dei corrispettivi la serata precedente, è così sollecito nel mandar fuori cartelle esattoriali di 50.000 euro per supposta non... E allora? Dov'è lo Stato in questi momenti? Lo Stato che non mi garantisce nulla a questo punto. E allora io penso, siccome da qualcuno da più parti mi è stato detto, ma perché non ti fai un bel porto d'armi? E io dico, guarda, forse la legittima difesa a questo punto, se uno entra in casa mia, se uno entra nel mio esercizio, se uno mi pianta la pistola nella pancia e mi minaccia, forse è l'unica cosa, perché lo Stato non ci tutela, signore. Non pensa che sarebbe peggio avere un'arma? No, a questo punto... Cioè che la sua vita potrebbe essere più in pericolo rispetto al fatto di non averla? Cioè fino adesso lei ha subito 4 rapine, da quello che mi sta raccontando, però non ci sono state conseguenze dal punto di vista... Insomma, non ci sono stati morti, feriti, sparatori, eccetera, eccetera. Lei non pensa di essere più in pericolo per quello che riguarda l'incolumità personale, anche la sua, naturalmente, se... Sta dicendo, però vorrei precisare una cosa, i 4 precedenti riguardano dei furti compiuti nella notte quando il locale era chiuso, con scasso e quant'altro. No, ma restiamo alle rapine, diciamo... La rapina a mano armata, secondo me, poteva avere svolti molto peggiori di quelli che sono avvenuti, perché questo tizio, tra l'altro, alla faccia... Sì, d'accordo, ma se lei avesse avuto un'arma, le conseguenze potevano essere maggiori o no? Senz'altro per il rapinatore, per quanto mi riguarda non lo so, è tutto da dimostrare. Ivano dalla provincia di Milano ha subito diverse rapine, alcune a mano armata, altre quando non era presente, ci dice, anzi stavamo ponendoci un problema, no, insieme. Sì, certo. Comunque Cruciani, la mia... Discorso... Ivano, il problema è questo, io penso che così di a pelle, di primo acchito, lei pensa di essere più sicuro con una pistola in mano. però poi valutando bene, si pone dei dubbi su questo, no? Sì, no, assolutamente, perché io mi sono chiesto, se ci fossi stato io al posto della dipendente sabato mattina, che cosa sarebbe successo, perché la dipendente se n'è stata quattaquata nel retro facendo finta di non sentire, per fortuna, perché ovviamente il rapinatore non sapeva che c'era un'altra persona, ma se fossi stato io al posto suo probabilmente non sarei stato quattaquato, mi sarei armato della sbarra che tengo nel retro per chiudere la finestra e probabilmente gliel'avrei calata sulla testa dalle spalle a questo signore. Ma il problema è questo, cioè questa è un po' una provocazione la mia, quello che io dico è che questi signori, compreso gli albanesi di Caserta, che poi alla faccia della xenofobia quello che ha fatto il trattamento a noi era un italiano, comunque questi signori possono fare quello che vogliono perché hanno sostanzialmente la certezza dell'impunità. E questo è il concetto. Allora non si vada a dire ma questo giudice ha dato 9 anni al tabaccaio di Milano quando in realtà meritava 9 medaglie, perché la legge è questo che dice e il giudice ha applicato la legge, quindi il problema sta nel manico, il problema sta nella legge che deve essere rivista. Questi signori pescati in flagrante con le mani nel sacco devono farsi 9 anni di lavori forzati, ma non mantenuti da noi, si devono mantenere con il loro lavoro. Ha capito qual è il problema cruciale? Ho capito, la ringrazio, però non sia così sicuro che con una pistola in mano, col porto d'armi, la sua sicurezza sarebbe più garantita. Lei dice la mia no, ma quella del rapinatore sicuramente sicuramente meno. Non lo so. La ringrazio. Stefano da Padova, Orlando da Mantova prima. Orlando, buonasera, poi mandiamo i titoli del TG2. Buonasera, Cruciani. Vorrei intervenire su questa sorta di giustizia fa da te che si proclama spesso e volentieri in Italia. Secondo me questa cosa è molto pericolosa, cioè dobbiamo essere attenti perché sempre quando capita qualcosa per quanto riguarda le violenze e quant'altro, alla fine a rimettere sono sempre i più deboli, cioè dobbiamo sconfessare qualsiasi forma di qualsiasi forma di legittimazione di questo tipo di violenza, perché è molto rischiosa alla fine per tutti, per coloro che subiscono, ma anche dopo per i più deboli, cioè sostanzialmente così è il mio intervento. La ringrazio, il suo accento, lei è originario di dove, Orlando? Io sono brasiliano. Che ne pensa della vicenda Battisti? Sono brasiliano, credo anche che c'è molta strumentalizzazione su questa cosa qua, perché è un problema di diritto sostanzialmente. La cosa che non si dice spesso in TV è che il problema Battisti è un problema legale, è un problema legato al diritto internazionale, ok? Cioè, secondo me, il presidente del Brasile non prenderà mai atto di niente, anche perché colgo l'opportunità per dire che nel nostro ordinamento, cioè, il ministro della giustizia è un giudice. Ok? Il ministro della giustizia brasiliano è un giudice. Io non ho capito bene, Orlando, al di là di queste disquisizioni, lei sta dando ragione al suo paese quando dice che quando ha fatto di Battisti un rifugiato politico? Do ragione alla magistratura che dovrà valutare, cioè in quel caso specificamente il presidente della Repubblica non può fare niente, deve soltanto aspettare. Io sono convinto, Orlando, che invece la questione sia non sia giuridica ma eminentemente politica. Se il Presidente della Repubblica in questo momento cambiasse parere o comunque si convincesse che è meglio dare Battisti all'Italia e estradare Battisti in Italia, credo che la Corte Suprema non avrebbe problemi a concedere l'estradizione di Battisti. La ringrazio. Andiamo a Narita Pescara. Buonasera Narita. Buonasera dottor Cruciani, grazie per avermi dato spazio. Grazie a lei di averci chiamato. Senta, io volevo dire due cose a proposito dell'intervento del professor Sartori, il quale afferma che Berlusconi dice delle fregnacce, lui dice. Io volevo dire che forse lui le dice anche più grosse quando afferma che, quando paragona la vita umana alla vita del pidocchio. Io vorrei chiedere al professor Sartori il paragone forse non era non l'ho questo. Capito. No, non lui, l'ho capito. Lui, il professor Sartori, ha detto: non c'è solo una vita, non c'è sempre la vita, non è unica. C'è, diciamo, una vita umana che vale la pena di essere vissuta, e poi ci sono vite che non vale la pena di essere vissute. Adesso più o meno io ho capito così. Comunque, l'altro tipo di vita è la vita del pidocchio, lui dice. Sì, più o meno. Vorrei chiedere al professor Sartori se ogni tanto lui fa delle visite negli ospedali, visita soprattutto certi reparti, e se lì sono da considerare vite del pidocchio, delle vite che stanno per finire, che stanno per spegnersi. No, ma ho capito benissimo, Annelita, perché anche a me sembrava un riferimento diretto, poi riascoltando effettivamente non credo si sia voluto, non credo che abbia fatto un paragone tra la vita del Pidocchio e quella di Luana Englaro. Questo mi sembrerebbe troppo, e si può anche criticare quello che pensa Giovanni Sartori, può non piacere Giovanni Sartori, ma non credo abbia fatto questo tipo di paragone, risentendo. La ringrazio. Emanuele da Lecco, buonasera. Sì, buonasera a lei. Un attimo solo, Emanuele, perché vogliamo sentire i titoli del TG2 di questa sera, sono le 20.40, sentiamo come riassume la giornata il TG2. La morte di Eluana compatibile col protocollo fissato dal Tribunale, dice il Procuratore Generale di Udine, autorizzata la sepoltura ai funerali religiosi, non ci saranno i genitori. L'incontro Berlusconi-Fini è andato benissimo, ha detto il Presidente del Consiglio, che ha aggiunto nessun contrasto col Quirinale. Poi la prima telefonata con Barack Obama, cordiale e sincera, dice Palazzo Chigi. Corruzione, truffe, tangenti, la Corte dei Conti denuncia i problemi della pubblica amministrazione e avverte, bisogna potenziare i controlli, preoccupa l'indebitamento degli enti locali. Temperature in calo, soprattutto nelle regioni del centro-sud, dove continua a nevicare sull'Appennino. Resta alto il rischio frane, soprattutto in Calabria, ma ora è il gelo il nuovo pericolo. Alle elezioni in Israele, il partito Kadima del ministro degli esteri Libni vince con appena un seggio in più sul Likud di Netanyahu, avanza l'ultradestra, il difficile cammino verso un governo. Arriva in Italia Katyn, il film del regista polacco Wajda, su uno degli episodi più infami della Seconda Guerra Mondiale. 22.000 ufficiali polacchi trucidati a freddo dai sovietici, una strage coperta per decenni da silenzi e bugie. Bene, sicuramente un film da vedere questo Katyn. 20.41, abbiamo un paio di minuti, dunque interventi molto veloci. Degli ascoltatori mi scrivono: se scavalchi il muro di una caserma militare ti possono sparare, come mai loro possono? Sono legittimati? È una provocazione, certamente è una provocazione, perché evidentemente possono, in quanto c'è scritto un cartello di vieto militare, in quanto l'esercito, i singoli cittadini hanno regole un po' diverse. Un altro ascoltatore: vivo da 6 mesi all'anno in Florida, se ammazzi un rapinatore nel tuo negozio a casa ti fanno l'encomio. È vero, ma ci sono appunto altre regole, allora decidiamo che vogliamo quel tipo di regole. Sparare prima in aria, poi se non basta mettere in fuga il malintenzionato, sparare in terra vicino al soggetto, se non bastasse ancora allora è legittimo puntare al bersaglio grosso. Ritengo questa una vera legittima difesa. Enrico da Roma. Andiamo a sentire velocemente interventi flash, se possibile. Stefano da Padova. Buonasera, dottor Cruciani. No, anzi, eravamo con Emanuele, poi vengo da lei. Emanuele, dica. Buonasera. Come penso tutti sanno, lunedì si è spenta Eluana Englaro. Sì. Io non voglio parlare nel merito della questione, perché ognuno ha le sue idee, per cui nessuno sa dire se è giusto oppure sbagliato. Io dico, per quanto riguarda il metodo che mi ha fatto davvero male, è l'ipocrisia degli esponenti del nostro governo, in quanto nelle notizie, subito dopo aver passato la notizia della morte di questa ragazza, si è subito visto che si sono radunati e sembravano proprio come dei dottori che avevano fatto tutto il possibile per salvare una vita umana. Il problema è che io in tutto il loro comportamento vedo soltanto della grossa ipocrisia e populismo, cioè strumentalizzare un evento pratico come in questo dovevano caso. Dovevano muoversi prima? Certo, hanno avuto non 17 anni, perché 17 anni è il tempo che... Sì, 8 mesi magari, negli ultimi... Molto tempo prima. Magari velocizzare i progetti di legge che sono da 8 mesi, alcuni di questi in Parlamento. Ma devo chiudere per stasera, allora un flash con Giuseppe da Torino. Giuseppe, velocemente, dica. Buonasera, senti, io chiamo perché ieri c'era un ascoltatore che aveva detto di Capezzone che non aveva sentito le sue dichiarazioni, no? E io lo so dire, io non l'ho visto, mi hanno detto che Capezzone lunedì sera al processo del lunedì, no? Invece di occuparsi oppure di fare dichiarazioni su Englaro, che è proprio quello che aveva detto su altri casi, dov'era? Al processo di lunedì a cazzeggiare. Va bene, con questo chiudiamo. Giuseppe, ci sentiamo con Michele da Roma, Stefano da Padova domani 18:30 La Zanzara, ciao. La Zanzara.